GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Aperta alle 9 di questa mattina la camera ardente dei due finanzieri morti sul Mangart, sulle bare, cappello e maglietta del soccorso alpino. Nel pomeriggio i funerali. Archiviata la settimana di Ferragosto, oggi è il giorno di diverse scadenze fiscali, riguardano soprattutto professionisti e imprese, ma anche semplici contribuenti. Temperatura di molto sopra la media, sarà un'intera settimana rovente. Le giornate peggiori domani e mercoledì. In pianura il termometro toccherà i 37 gradi. Da mercoledì a venerdì le maestre di nidi e materne comunali di Trieste dovranno improvvisarsi educatrici dei ricreatori a causa di alcuni concorsi, la protesta dei sindacati e la posizione del comune. Il cantiere del nuovo carcere di San Vito al Tagliamento può partire. L'Avvocatura dello Stato ha dato il via libera all'adeguamento dei prezzi richiesto dalla ditta costruttrice. Calcio: Udinese sconfitta duramente dalla Juventus al Friuli nel debutto della nuova stagione di Serie A. L'allenatore Sottil chiede tempo per poter lavorare. 60 anni dopo la tragedia del Vajont, inaugurate 3 mostre per guardare avanti: fotografia, progetti di rigenerazione e arte contemporanea sul tema delle foreste e delle acque. Le 12:31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaini a Daniele Lettig. Saranno celebrati tra poche ore alle 14:30 nella chiesa di San Pietro a Tarvisio i solenni funerali di Stato dei due finanzieri morti sul Mangart. È prevista la partecipazione del ministro dell'economia Giorgetti e del presidente della regione Fedriga. Alle 9 di questa mattina in cimitero l'apertura della camera ardente. Volontari del soccorso alpino, guardia di finanza, tarvisiani e non arrivano alla spicciolata per tutta la mattina alla camera ardente dei due finanzieri Lorenzo Paroni, 30 anni, di Monterale Valcellina e l'abruzzese Giulio Alberto Pacchione, di 2 anni più giovane, camera ardente allestita al cimitero di Tarvisio. Sulle bare cappello e maglietta del soccorso alpino della guardia di finanza e un moschettone. Paroni e Pacchione sono morti mercoledì 16 durante un'attività ufficiale di addestramento, precipitati forse a seguito di un distacco roccioso che li ha travolti durante una sosta nel corso della scalata del pilastro Piussi sulla parete nord del piccolo Mangart di Coritenza. Dalle 9 alle 12 il servizio d'onore in cimitero aperto alla cittadinanza, poi i feretri verranno traslati in chiesa per l'ultimo saluto da parte della comunità. In piazza della chiesa è stata allestita una tensostruttura con posti a sedere aggiuntivi. La messa solenne è in programma alle 14:30, funerale di Stato alla presenza del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e dei suoi sottosegretari. Parteciperanno il presidente Fedriga, il vicepresidente Riccardi, il comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, che interverrà durante la funzione, sindaci, autorità civili e militari e la rappresentanza del soccorso alpino, di cui entrambi facevano parte. 3 le comunità in lutto cittadino: Tarvisio nella giornata odierna, Silvi in provincia di Teramo e Montereale Valcellina domani, quando in entrambe le località verranno celebrati funerali privati. Il viaggio di ritorno verso i luoghi di origine di Pacchione e Paroni sarà scortato delle staffette della Guardia di Finanza. Tarvisio, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Archiviata la settimana del Ferragosto 2023, oggi scadono più di 100 versamenti dovuti al fisco, dall'IVA all'IRPEF, dall'IRES all'IRAP. Un ritorno dalle vacanze amaro. Agosto è il mese delle ferie, ma anche delle scadenze fiscali che attendono soprattutto professionisti e imprese, ma anche semplici contribuenti. Oggi è l'ultimo giorno per versare 148 tra imposte e tasse, a cui se ne aggiungono 40 richieste entro fine mese. Un ordine del giorno approvato dalla Camera impegna il Governo a posticipare i pagamenti, ma non è detto che venga concesso più tempo per rispettare le scadenze senza maggiorazioni o more. Classico l'appuntamento con l'IVA per i professionisti e le imprese e per chi ha scelto la soluzione trimestrale. Dovranno pagare anche IRES e IRAP, mentre scadono anche IRPEF per le imposte dirette e l'anticipo sulla cedolare secca sugli affitti. Artigiani, commercianti e ristoratori devono versare la seconda rata dei contributi. Dentro al calderone per gli imprenditori anche i pagamenti delle accise sui prodotti energetici di luglio, mentre associazioni sportive, dilettantistiche e proloco dovranno registrare i corrispettivi relativi al mese precedente, che in molti casi coincide con gli incassi delle sagrestive, sempre più fonte di sostentamento per le piccole società. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Anche in regione fino a venerdì è prevista una nuova ondata di caldo. Le temperature saranno molto elevate per più giorni consecutivi. Sentiamo dove il caldo si farà più sentire in regione, per quanto tempo e quali saranno le giornate peggiori, con Sergio Nordio dell'ARPA. L'anticiclone di origine tropicale, che sta portando masse d'aria molto calde ad alta quota anche nei bassi strati, sembra essere molto duraturo in questa occasione, quindi al momento le previsioni sono che per tutta questa settimana, probabilmente fino a sabato compreso, resteranno condizioni molto stabili e temperature decisamente elevate per essere ormai la fine di agosto. Quali saranno le giornate peggiori dal punto di vista del caldo? Per quanto riguarda i massimi delle temperature, ci attendiamo ancora una lieve crescita nella giornata di oggi, ma poi soprattutto domani, martedì e mercoledì, con i picchi massimi che probabilmente toccheranno i 37, localmente forse verranno sfiorati anche i 38 gradi. Caldo resterà anche nei giorni successivi, ma forse appunto comincerà ad attenuarsi leggermente, qualche grado in meno nella seconda parte della settimana. I valori massimi delle temperature sono attesi in pianura, probabilmente sulla pianura orientale, nell'Isontino, ma direi che in gran parte della zona di pianura, diciamo, possiamo avere appunto questi picchi elevati nelle ore diurne. Resterà invece molto caldo sulla costa anche nelle ore notturne, un po' per la compressione dovuta alle correnti orientali e anche poi per il fatto che il mare comunque è molto caldo, quindi di notte si sentirà molto caldo soprattutto sulla costa. La possiamo considerare l'ultima grande ondata di calore estivo? Ma per quanto riguarda poi le prospettive a medio e lungo termine, probabilmente ci sarà un calo delle temperature la prossima settimana dovuto anche all'arrivo di correnti atlantiche che porteranno probabilmente anche delle piogge e dei temporali, ma sono previsioni ancora tutte da aggiornare. La prospettiva poi, ormai saremo alla fine di agosto e primi di settembre, ci saranno ancora dei ritorni di temperature estive, ma al momento non sembrano avvicinarsi altre ondate di calore. Al momento il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 12. A Trieste 32 gradi e mezzo con mare poco mosso e una temperatura di 26. Udine 32 e mezzo, Gorizia 33, Pordenone 34, Piancavallo 24, Sappada e Tarvisio 25, Forni di Sopra 27 e mezzo, Tolmezzo 30, Monte Lussari 20, Monte Zoncolan 21 e mezzo, Grado e Lignano 30 e mezzo con una temperatura del mare di 27. Queste invece le previsioni per oggi pomeriggio. Tempo stabile con prevalenza di cielo sereno. Farà molto caldo con temperature massime che potranno superare i 35 gradi su ampie zone di pianura e minime che rimarranno molto elevate sulla costa. Le temperature saranno eccezionali in quota con zero termico che potrà toccare o superare i 5.000 metri. Soffieranno venti di brezza e borino sulla fascia costiera orientale. Il 23, 24 e 25 agosto a Trieste sono previsti i concorsi per entrare nei ricreatori, nei nidi, nelle scuole dell'infanzia comunali. Per consentire al personale precario di partecipare è prevista in questi giorni una rivoluzione all'interno dei ricreatori che i sindacati descrivono come una violazione del contratto, del servizio, anche la posizione del comune. Da mercoledì a venerdì di questa settimana le maestre degli asili nido e delle scuole d'infanzia comunali di Trieste dovranno improvvisarsi educatrici dei ricreatori frequentati da centinaia di bambini e ragazzi di elementari e medie. Niente gite però, staranno tutti dentro i ricreatori per questi 3 giorni. Il comune ha fatto questa scelta per permettere anche a chi in questi giorni lavora nei ricrestate di partecipare ai concorsi per incarichi di supplenza e altre assunzioni a tempo determinato. Il 23 ci sarà il concorso per la graduatoria dei ricreatori, il 24 per quella dei nidi e il 25 agosto per le scuole d'infanzia. I sindacati sono pronti a scioperare all'inizio dell'anno scolastico se non riusciranno ad ottenere un incontro con gli assessori coinvolti dalla questione, Maurizio De Blasio, assessore all'educazione, e Stefano Avian, assessore al personale, che replicano: le date dei concorsi sono state fissate per garantire i tempi tecnici necessari alla chiusura di tutti il lavoro che serve per avere gli educatori in tempo e per assicurare i servizi ai cittadini. Per i sindacati la richiesta è una chiara violazione contrattuale. Il contratto prevede che le maestre di nido e asilo siano a disposizione per corsi di formazione e sicurezza, non per lavorare nei ricreatori. Gli assessori replicano che sono stati rassicurati dagli uffici dell'amministrazione sul fatto che è tutto perfettamente in regola. I sindacati sono pronti a ricorrere al TAR. CGIL funziona pubblica sta pensando anche ad un altro ricorso, questa volta per incapacità organizzativa dei dirigenti. CISL, UIL e UGL ricordano lo sciopero al quale hanno aderito pochi mesi fa 500 insegnanti su 750. I temi erano altri, ma la determinazione è la stessa. La consigliera comunale di Forza Italia, Angela Brandi, ex assessora all'educazione, deplora questo inutile e dannoso muro contro muro e invita le parti al dialogo. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'Avvocatura Generale dello Stato ha dato il via libera all'adeguamento dei prezzi richiesto dalla ditta incaricata di costruire il nuovo carcere di San Vito al Tagliamento. Ora il cantiere può partire. Adesso si può partire, è sempre più vicino l'avvio del cantiere del carcere di San Vito al Tagliamento, ora che l'Avvocatura Generale dello Stato si è detta favorevole all'adeguamento dei prezzi chiesto dalla ditta incaricata della costruzione, l'Emiliana Pizzarotti. Il provveditorato di Venezia ha rimodulato il quadro complessivo dell'operazione, che è ora di circa 45 milioni di euro. L'allineamento sembra superare l'ultimo intoppo burocratico di una vicenda che sembrava non avere mai fine. Se non si presentano altri ostacoli, e non dovrebbero, non appena arriveranno i finanziamenti si potrà sottoscrivere il contratto e dare il via ai lavori. Il penitenziario di San Vito, che dovrebbe sostituire quello di Pordenone in centro città, ospiterà 300 detenuti e sorgerà sul sito dell'ex caserma d'allarme. I tempi di costruzione si aggirano intorno ai 540 giorni. Siamo soddisfatti, ha dichiarato il sindaco di San Vito, Alberto Bernava. La notizia è molto positiva e siamo più sereni. Ora toccherà alla Ragioneria dello Stato provvedere all'adeguamento delle risorse, aggiunge. Ma esaurita la parte giuridica e ora, si spera, quella burocratica, si potrà passare a quella operativa. Del progetto si parla da almeno 25 anni, era parte del piano carceri del 2013 e la gara d'appalto venne fatta 3 anni dopo, gara in cui la Pizzarotti arrivò seconda. Da qui comincia una strada complicata fatta di ricorsi e sentenze che la Pizzarotti riesce a vincere ricorrendo prima al TAR e poi al Consiglio di Stato, anche per adeguare l'importo dell'appalto alla sua offerta. L'ultima sentenza risale al dicembre 2022, quando il massimo tribunale amministrativo fissa il costo intorno ai 30 milioni di euro, cifra ora adeguata al rialzo dell'Avvocatura Generale dello Stato. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Approvata all'unanimità dal CAL, il Consiglio delle Autonomie Locali del Friuli Venezia Giulia, la delibera della Giunta regionale che stabilisce criteri e modalità per la concessione ai comuni delle risorse legate al fondo da 2 milioni di euro che era stato istituito con la legge di stabilità del 2023 per coprire eventuali diminuzioni di gettito conseguenti all'introduzione della nuova ILIA, imposta locale immobiliare autonoma, che ha sostituito l'IMU dal 1 gennaio di quest'anno. Lo sport, il calcio, secca sconfitta ieri sera per l'Udinese nel debutto della nuova stagione di Serie A. Allo Stadio Friuli, i bianconeri, vittima anche di diversi errori, si sono arresi per 3-0 alla Juventus. L'Udinese comincia male. La sconfitta con la Juventus non è mai un fulmine a ciel sereno, nemmeno nel calcio d'agosto, ma il tuffo in Serie A per i nuovi giocatori del club friulano è un tonfo. Primo tempo dominato dalla squadra di Allegri, che ha il vantaggio di segnare subito dopo un errore di Zarraga, ma non c'è reazione dell'Udinese. Arrivano in sequenza il gol su rigore di Vlahovic e la terza rete di Rabiot, questa volta con Silvestri protagonista in negativo. Sentiamo il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil. Non mi è piaciuto soprattutto la prima parte del primo tempo, perché la cosa che mi fa arrabbiare è quando non vedo fare le cose che abbiamo provato e che sappiamo fare, cose che poi dopo tu le fai, perché poi secondo tempo le fai. Detto questo, la squadra ha calciato 18 volte in porta, 5 sullo specchio, ha avuto 2 grandi occasioni, ha battuto più calcio d'angolo della Juve. Certo che per vincere le partite, fare punti, bisogna fare gol. Nella ripresa la Juventus non affonda sul pedale e la squadra di Sottil acquista in qualità in mezzo al campo con l'inserimento di Samardžić. La permanenza del centrocampista della nazionale serba rimane un punto interrogativo, servirebbe al tecnico dei friulani, che però sa di dover lavorare con quello che la società gli mette a disposizione. C'è da lavorare, l'ho detto, c'è da lavorare, quando si cambia bisogna, questa categoria nostra è tosta, la Serie A italiana è tosta, dura, e quindi qualcuno ancora deve trovare quell'inserimento, quel ritmo che la Serie A, nella Serie A devi avere. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia comparirà sulla maglia dei giocatori dell'Udinese per la stagione appena iniziata e per le prossime due, ovvero fino al 2026, facendo così di Promoturismo FVG il main sponsor della squadra calcistica di Serie A. Si tratta di una scelta di cuore, ha spiegato il presidente della regione Fedriga ieri sera prima del match con la Juventus alla presentazione della partnership, ma anche di ragione, perché l'Udinese è in grado di garantirci una grandissima visibilità avvalorata da uno studio che ha verificato l'impatto della sponsorizzazione. Tre mostre per guardare avanti e non fermarsi solo a commemorare una tragedia sono quelle inaugurate qualche giorno fa e visitabili fino a dicembre al nuovo spazio di Casso al Vajont a cura del Laboratorio di Arti Visive in Ambiente Dolomiti Contemporanee. Si tratta di una mostra di fotografia, una di progetti di rigenerazione e una di arte contemporanea connesse al tema delle foreste e delle acque. Ci racconta di più l'ideatore di Dolomiti Contemporanee e curatore dello spazio espositivo Gianluca Dinca Levis. Dolomiti Contemporanee quest'anno ha predisposto per l'appunto tre esposizioni. Ci troviamo all'interno del nuovo spazio di Casso, così rinominato nel 2012 quando riaprimmo le ex scuole elementari danneggiate dalla tragedia del 63, che da allora, dal 2012, sono state trasformate in un centro per la cultura contemporanea della montagna e del paesaggio. Quest'anno abbiamo una triade di mostre raggruppate sotto un macro tema che è delle foreste e delle acque. Quindi questo è il tema generale unificante, dentro al quale trovano posto però tre mostre. In sostanza si tratta di una mostra di ricerca fotografica legata al grande evento di Milano Cortina 2026. Questa mostra si intitola Anatomia e dinamica di un territorio, coinvolge il Bauer di Milano, un'antica scuola di fotografia. Questa mostra fotografica trova posto a due livelli dello spazio di Casso. L'accompagna una mostra dove si compie un altro tipo di ricerca, ancora con un istituto della formazione partner, la scuola di architettura di Portsmouth in questo caso. La mostra si intitola Foresta aliena, foresta critica. Qui abbiamo dato ai ragazzi di Portsmouth dei temi di progetto in aree critiche. Il Vajont naturalmente è un'area critica. La terza mostra è una collettiva d'arte contemporanea che si intitola Neoformazioni forestetiche. Qui una ventina di artisti di ogni provenienza restituiscono una serie di opere ancora legate alle foreste e alle acque. In particolare un grande pannello viene dipinto da 14 pittori. Quest'opera è viva e si verrà sviluppata nelle prossime settimane e mesi. Che senso ha organizzare queste mostre in un luogo come Casso, sopra la diga del Vajont? Il Vajont è un luogo per i vivi, non un luogo dove celebrare i morti. Ci vivono delle persone, questa è la mentalità con cui abbiamo aperto lo spazio di Casso. Le mostre che proponiamo a Casso servono per dire che il mondo è grande, che questo territorio è vasto. Inizia oggi la 32esima edizione dell'Alpe Adria Puppet Festival, che durerà fino a domenica 27 a Muggia e a Grado. Primo appuntamento alla Biblioteca Civica Falco Marin di Grado, oggi alle 16.30, con l'inaugurazione della mostra Miss Mascherati, a cui seguirà alle 18.30, in campo Patriarca Elia, una dimostrazione pratica dell'artista Antonio Trinco. Ancora un appuntamento che riguarda i più piccoli per il cartellone Trieste Estate. Inizia oggi la settimana dedicata ai bambini con la seconda edizione del Festival Internazionale Dadadu, con compagnie di professionisti provenienti da Italia, Croazia e Slovenia. Alle 20 al giardino del Museo Sartorio andrà in scena Pinocchio, un colorato spettacolo ispirato alla favola di Collodi. Finisce qui questa edizione del Giornale Radio Regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Daniele Lettige. In regia per la parte tecnica Bruno Montevecchi e Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. A tutti voi grazie per averci seguito, un buon proseguimento d'ascolto e ancora un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.